A tempo di sport di Giovanni Capuano. Pronto? Marcello? Sì. Buonasera, Radio 24, Sole 24 Ore. Possiamo farle complimenti, sì, in diretta? Grazie. Sì, complimenti, sì. Ha vinto il campionato. Insomma, per lei è routine, sì, o comunque è un'emozione anche questo successo? No. Per me è il sesto scudetto questo. Però è una grandissima soddisfazione perché sono il primo italiano che ha vinto uno scudetto in Cina. E non sono il primo italiano che ha vinto uno scudetto all'estero, però è una bella soddisfazione perché qua nei miei confronti c'è grande stima, grande considerazione, perciò siamo molto bene, è una bella soddisfazione. Tra l'altro abbiamo letto che ha dovuto sudarselo fino al 90esimo perché questo gol, sì, scudetto, sì, non arrivava. No, a parte che no, avremmo vinto lo stesso anche col pareggio, perché abbiamo vinto con 5 punti di vantaggio, se avessimo pareggiato sarebbero stati 3. Sarebbe diventato un po' il tratto distintivo dei voi italiani allenatori all'estero, quello degli ultimi minuti, un po' del batticuore. No, ma come ripeto, noi avremmo vinto anche se avessimo pareggiato. Certo. Perché se avessimo pareggiato avremmo avuto 3 punti di vantaggio, ma avevamo vinto lo scontro diretto, perciò era scudetto comunque. Non lo mette però sullo stesso piano degli scudetti della Juventus, comunque una differenza c'è, insomma, anche se la Cina è una bella esperienza, ce lo raccontava. La differenza è che dal punto di vista tecnico il calcio cinese è diverso dal calcio italiano, sicuramente dal calcio europeo, però dal punto di vista emozionale è sullo stesso livello. Comunque il bilancio di questa sua avventura di questi mesi sarebbe stato positivo a prescindere da questo successo di oggi, oppure questo successo lo corona? No, noi siamo usciti dalla Champions dopo aver fatto una partita fantastica e aver preso 2 pali traverse, sbagliato un rigore e solo per un gol siamo usciti, altrimenti saremmo andati in semifinale. Adesso abbiamo vinto lo scudetto, siamo in finale di Coppa di Cina, insomma, se dovessimo vincere anche la Coppa di Cina, che è come la nostra Coppa Italia, vincere campionato e Coppa di Cina sarebbe comunque un inizio molto buono. Si riconosce nell'etichetta di eroi dei due mondi che in queste ore viene scritta su molti siti in Italia? Sì, con molta fantasia, ma... comunque ripeto, nei confronti, nei confronti nostri, tutto lo staff, perché siamo tanti qua dello staff di italiani, c'è una grande considerazione e una grande ammirazione, e questo è un motivo di soddisfazione. Noi dobbiamo ringraziarla anche perché questa notizia ci consola in parte dalle brutte che leggiamo negli ultimi 2 giorni sul declino del calcio italiano, e poi va ci bene, sono anche i bei risultati di Capello. Il nostro scudetto, non parliamo di altro stasera, va bene? Va bene, la ringrazio, complimenti, okay, ancora. Arrivederci. E allora parliamo solo dello scudetto cinese di Marcello Lippi, o anche no. Buon pomeriggio amici di A Tempo di Sport. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta, 349 238 6666 per i vostri messaggi, oppure la nostra pagina Facebook che è sempre aperta anche durante la settimana ed è A Tempo di Sport - Radio 24, ma potete scriverci anche su Twitter @CapuanoGio. Vogliamo però parlare anche di altro, non solo dello scudetto cinese che abbiamo celebrato, lo scudetto di Marcello Lippi, che è la soddisfazione in coda a una settimana amara per il calcio italiano, la settimana in cui il calcio italiano si è misurato ancora con le sue difficoltà, la difficoltà di essere competitivo in Europa. Buon pomeriggio Stefano Eragno. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Ciao Stefano, buon pomeriggio. Hai sentito Marcello Lippi? Ha vinto lo scudetto cinese. Beh, è sempre, anche se è così distante, un calcio che conosciamo poco, però è sempre difficile potersi imporre, e soprattutto in una terra sconosciuta, e questo è grazie alle capacità di un allenatore che, come ha fatto vedere di essere capace in Italia, giustamente ha portato la mentalità nostra in un posto dove c'è molto da crescere, però stanno crescendo bene. Sì, mi è piaciuto particolarmente, ho riconosciuto Marcello Lippi quando ha detto: adesso abbiamo vinto lo scudetto, però abbiamo ancora la finale di Coppa di Cina, riuscissimo a vincerle tutte e due sarebbe un buon inizio. Certamente già un passo avanti è stato fatto, e poi è sicuramente un paese in crescita, vogliono investire molto sul calcio, e in giro per l'Europa se ne vedono già tanti di giocatori orientali, perciò le capacità ce l'hanno, basta solo un po' di scuola e quella italiana penso che sia la migliore. Scopriremo magari fra qualche anno che anche i cinesi, così come tanti altri, ci stanno superando. Ricordo i numeri 800 24 00 24 per parlare con noi in diretta, 349 238 6666 per i vostri messaggi, a tempo di sport trattino radio 24, la nostra comunità su Facebook, oppure chiocciola Capuano Gio su Twitter. Stefano Eragno, questo weekend, il weekend che si apre tra poco meno di un'ora con Siena-Palermo, ma poi vive questa sera la gara tra Milan e Genoa, è un weekend al quale il campionato italiano, il calcio italiano, io credo aspettino delle risposte importanti, a partire dal Milan e dalla sua crisi infinita, da Juventus e Napoli che una settimana fa a quest'ora stavano per giocare lo scontro diretto, ma sembra passato un secolo perché poi in mezzo ci sono state le delusioni europee, poi c'è anche l'Inter che deve spiegarci a che punto è il suo processo di crescita. Qual è il tuo titolo d'apertura nelle attese da questo weekend? Ma, certamente ci sono, quando si esce dall'Italia ci sono sicuramente dei problemi dovuti al calcio che ha perso un po' di qualità in Italia, anche se è nominato comunque la Juventus, il Napoli che la stanno facendo un po' da padrone nel nostro campionato, però non tanto la Juventus perché ha cercato di schierare contro una squadra danese la miglior formazione, mentre invece il Napoli sta cercando di gestire un gruppo che non è sicuramente un gruppo che può competere in due fronti perché fa molto turnover e questo gli costa poi il non vincere in Europa, mentre invece in Italia cerca sempre di gestire gli stessi 11 per poter comunque essere competitivo. Io ti chiedo un minuto di pazienza per le notizie sul traffico, perché poi ti faccio sentire come se l'è presa oggi Mazzarri su questa storia del turnover in Europa League. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta, 349 238 6666 per i messaggi. Un minuto di traffico, poi torniamo con Stefano Eragno. Meno male che l'Inter ha salvato la faccia al calcio italiano, squadra umile ma tenace, ci scrive su Twitter chiocciola Capuano Gio Luca Salati, perché poi anche la discussione in questi giorni sulla qualità del calcio italiano in Europa, Stefano Eragno, finisce per diventare questione di bandiera. Ti faccio sentire che cosa ha risposto oggi Mazzarri a chi gli ha parlato di una possibile contestazione dei tifosi del Napoli domani sera al San Paolo contro il Chievo. Io credo che da quando siamo arrivati a Bigò, facendo il rapporto con tutte le altre società italiane, siamo la squadra che ha fatto meglio, sia considerati i famosi parametri, budget, ingaggi, espressioni e risultati sul campo. Credo che meglio del Napoli, forse in Europa, hanno fatto pochissime squadre. Questa è la risposta su tutto. E spero, come ho detto prima, chi lo vuol capire capisca, chi non lo vuol capire perché so io perché non lo vuol capire, a noi non ce ne frega niente. Grazie. Frizzante Mazzarri, Stefano? Certo che lui cerca di difendere giustamente il proprio operato e dice cose che rispetto a quello che hanno fatto magari tante squadre, soprattutto per quello che ha fatto l'anno scorso, che è arrivata in Champions forse con meno giocatori importanti e adesso ha cercato di ampliare la sua rosa, però purtroppo se cerchi di puntare il dito solo su una competizione, perché forse il problema è stato proprio questo, l'anno scorso hanno puntato sulla Champions e poi hanno lasciato un po' andare il campionato che non gli ha permesso di arrivare nelle prime quattro, e quest'anno invece vogliono puntare allo scudetto. Poi sai, Mazzarri può dire certamente quello che pensa, però penso che sia la gestione di un gruppo che con il presidente hanno deciso di puntare solo esclusivamente al campionato. Sì, magari sarebbe il caso di spiegarlo per bene alla gente a casa, così come io credo finalmente nelle ultime due settimane il Milan abbia spiegato ai suoi tifosi quali sono i piani per questa stagione. Quanti ne hai giocati di Milan-Genoa con una delle due maglie? Tanti e appunto questa sera si incontrano due delle, vabbè, a parte che il Genoa ce l'ho nel cuore anche perché ci sono approdato al Genoa quando avevo 9 anni e sono andato via che ne avevo 24. Ho indossato la maglia della nazionale quando ero al Genoa, perciò mi ha dato tanto e mi sento genovese come lo sono, puro sangue. No? Perciò... Te ne ricordi qualcuno pesante come quello di stasera, di Milan-Genoa? No, grazie a Dio no, perché devo dire che mi ricordo una partita che fu un recupero, giocata il mercoledì con il Milan del 90. Era il 90 che poi noi ci qualificammo per la Coppa UEFA, dove vincevamo 1-0 sino all'89esimo, poi ci fu dato un rigore contro al 90esimo, 89esimo, dove Van Basten poi pareggiò la partita, però avremmo meritato di vincere sicuramente quella partita. Mi ricordo quella. Di partita particolarmente pesante, a me interessa capire se ti fidi di quella sensazione di calma, secondo me apparente, che si è respirata ieri a Milanello. Ti faccio sentire un piccolo estratto di Allegri, perché ieri improvvisamente anche nella conferenza stampa è sparita la parola esonero, quasi che a Malaga le cose fossero andate bene. Sentiamo Allegri. Non è l'ultima spiaggia perché vado sugli scogli, prima cosa. Sì, agli scogli piatti. Prima cosa. Seconda cosa, non è nel mio carattere sperare in un licenziamento, anche perché sono... No, liberazione niente, la liberazione sarà quella quando la squadra risalirà in classifica e passeremo il turno di Champions. Perché nel momento di difficoltà tirarsi fuori non fa parte del mio carattere. Se mi rendessi conto che la squadra non mi segue e non fosse in grado di fare quello che richiedo io, nelle possibilità e nelle caratteristiche di quello che hanno i giocatori, sarei io il primo ad andare in società a dirlo. Innanzitutto il presidente non mi è stato lontano, perché visto che appena ho detto che era una settimana che non sentivo il presidente, subito sono detto il presidente non chiama più Allegri, quindi il presidente ha deciso di mandare l'allenatore quando mercoledì. Prima della partita l'ho sentito, era sereno, ha cercato di incoraggiarmi e di incoraggiare la squadra come sempre. È normale che domani la partita sia straimportante. Calma apparente, Stefano, sorrisi, risate, battute, come se col Malaga fosse andato tutto bene. Si era detto che doveva essere l'ultima spiaggia, probabilmente il Milan e Allegri stesso sono già oltre l'ultima spiaggia. Devo dire che ha parlato bene. Questo fa capire che comunque anche tutta la società pensa che questa squadra possa dare questo. Non sta dando molto, non sta ottenendo risultati, però in questo momento anche un cambio d'allenatore non so quanto potrebbe portare, quante innovazioni, no? Anche perché ha delle lacune questa squadra e su tutto. Manca un giocatore che ti possa garantire tanti gol, come è sempre stato il Milan, no? Ha sempre avuto comunque giocatori davanti che garantivano tantissimi gol, perciò anche nei momenti di difficoltà vivi sempre dove poterti aggrappare, no? Pur nelle problematiche che possono esistere nel gioco del calcio. Manca anche Stefano un po' di chiarezza, perché poi vediamo ad esempio due giocatori come Acerbi e Constant che praticamente non hanno giocato dall'inizio della stagione, buttati in campo a Malaga in una gara decisiva, poi adesso si ritorna a quelli vecchi, ad esempio a Boateng, che poi in realtà domani, stasera, non giocherà perché all'ultimo ha accusato un problemino, ma che dopo la punizione era destinato a scendere in campo. Anche in queste scelte in realtà si fa fatica a trovare una coerenza. Sì, anche questa di Boateng, che all'ultimo ha risentito il problemino, non vorrei, appunto, più che altro sono questi i problemi magari da poter risolvere, perché non si sa mai dove sia la realtà, no? Perché magari è punito per una cosa, perché è stata poi una punizione quella di Malaga, adesso magari che lui non faccia il poco professionista, cercando di mettere ancor più in difficoltà l'allenatore, no? Facendo capire a lui che non remerà più, no? A favore del Milan. Io ti parlo da fuori, però quando te non vivi la settimana e non puoi capire dall'interno come sono gli allenamenti, come sono fatti gli allenamenti e i giocatori, gli interpreti e come si impegnano, è difficile anche dire che le scelte sono state sbagliate, no? Perciò è certo che, come dici te, rivedere una partita così importante, due giocatori che sicuramente con la condizione fisica sono un po' indietro, perché solo la continuità ti può dare quello, ha lasciato un po' perplessi tutti. Anche se il modulo di gioco... Se, ti è piaciuta la difesa 3? Ma no, se l'avesse riproposto, perché sai, cioè, nel calcio è giusto provare le cose, ma magari a tempi, nei tempi giusti, no? Certo, provarlo in due giorni è quello che lascia un po' perplesso. Sì, poi si rischia che basta un movimento sbagliato, come è successo a Malaga, e si perde una partita che hai sofferto, ma che in fondo potevi anche portare a casa, almeno come pareggio, senza commettere errori. Io credo che pesi molto nell'ambiente Milan il precedente a cui tu hai partecipato, quello del 96, l'esordio, l'esonero di Tabárez, che di fatto non migliorò la situazione nel ritorno di Sacchi, perché poi io credo certi spogliatoi, ad esempio quello del Milan, che sono poco abituati a queste scosse, non sempre sono in grado di metabolizzarle. Anche vero, colui che viene dopo, cioè, trova una squadra che magari fisicamente non è stata preparata bene, e quando non ti prepari all'inizio molto bene diventa difficile poi in corsa riprenderla, no? Perciò ci sono vari problemini, ma soprattutto questa squadra che o cambia l'allenatore al momento, però sarebbe una beffa per il presente, cioè che nel momento che cambia l'allenatore si apre il mercato e compri, vai a riparare, anche se è rischioso anche questo, perché in giro non so se riuscirete, sì, non a trovare, non c'è molto, non c'è molto. Esatto, non c'è molto, perciò è difficile. Certo che in un momento così l'unica soluzione che è cambiare l'allenatore, se vuole la società, però io dubito che possa migliorare quest'anno. Quest'anno secondo me hanno detto che l'anno zero, è giusto che sia così, perché certi errori, errori di valutazione, mandando via tanti giocatori di un certo livello, ha creato sicuramente degli scompensi che strada facendo io mi auguro che possano recuperare, però la qualità di questa squadra è questa, e quando non hanno risultati possono anche creare, si possono creare altri problemi. E a questo devono abituarsi i tifosi del Milan. Grazie a Stefano Ragno. Grazie a voi. Grazie a Stefano Ragno di essere stato con noi. 800 24 0024 per le vostre opinioni in diretta, 349 238 6666 per i vostri messaggi, oppure su Facebook a Tempo di Sport trattino Radio 24, o su Twitter @ Capuano Gio. Ci fermiamo, pubblicità e meteo. A Tempo di Sport. 800 24 0024 per le vostre telefonate in diretta, 349 238 6666 per i vostri messaggi. Potete scriverci sulla pagina Facebook a Tempo di Sport trattino Radio 24, anzi vi invitiamo a unirvi alla nostra community, che poi rimane aperta per tutta la settimana, anche ai vostri commenti. Potete scriverci ancora su Twitter @ Capuano Gio. Roberto dalla provincia di Parma, buon pomeriggio. Buonasera, grazie. Prego. Di avermi richiamato. Volevo parlare di Lippi, no? Prego. Ecco, secondo me Lippi può essere simpatico, antipatico, questo qua. Come allenatore, secondo me, è assolutamente per me il numero uno, anche in base alle panchine che, ecco, perché è un conto, è uno che fa come Trapattoni, che ha, insomma, che sono 30 anni magari, che è solo... Lippi poi ha fatto 8 anni alla Juve, in 8 anni, 4 finali, 3 di Champions League, 4 di finali di Champions League, 1 di Coppa UEFA. 6-5 scudetti, tutto quello che ha vinto, un titolo mondiale, ecco. Anche adesso il decantatissimo Mourinho, che è bravissimo, ci mancherebbe altro. I Guardiola, ma guardiamo i fuoriclassi di Guardiola a confronto, sì, anche no, non che quella Juventus, Juve. Non che quella Juventus fosse particolarmente scarsa a livello di quantità e di qualità, però è certo, Roberto, che Marcello Lippi sia davvero un grande allenatore, ma l'ha sentita la fame anche con cui dalla lontana Cina dice: abbiamo vinto il campionato, però a me piacerebbe tanto fare la doppietta anche con la Coppa di Cina. Ecco, io credo, e chiedo conferma anche a Sandro Piccinini, voce storica di Mediaset, che intanto ci ha raggiunto. Buon pomeriggio, Sandro. Ciao a tutti. Beh, io credo che quello sia la cosa che ha fatto grande Marcello Lippi. Vale nella Juventus, vale nel Mondiale 2006 con la nazionale italiana e vale anche nel calcio cinese, che certamente non è a livello di quello europeo, ma una vittoria e uno scudetto vale a prescindere. Sandro? Sì, non è mai facile vincere, soprattutto in un ambiente così diverso, dove magari si conoscono poco i valori dei giocatori, quindi è molto importante la mano di un allenatore di grande esperienza come lui. E lui scalpitava da un po', aveva voglia di tornare, aveva rifiutato qualche proposta che evidentemente non l'aveva convinto. Qui bisogna apprezzare veramente, come dire, lo spirito con cui alla sua età ha affrontato questa avventura, insomma, dimostra che è ancora un grande appassionato di calcio, oltre che un grande allenatore. Sì, perché poi ci si diverte, ci si commuove, ci si emoziona, ci si impegna a prescindere dal livello del campionato in cui ti misuri. Volevo capire, Sandro, quanta curiosità hai di verificare, di vedere la coda dell'effetto Europa anche sul campionato dopo questa settimana in cui ci siamo scoperti nuovamente improvvisamente poco competitivi? Sì, diciamo che è stata una conferma, purtroppo, perché da qualche anno le cose vanno così. Devo dire che la delusione grossa è stata quella della Juventus, che secondo me ha le carte in regola per ben figurare anche in ambito internazionale, quindi quella è stata una delusione. Il Milan, come dire, ha fatto quel che ha potuto, perché in questo momento non può molto di più, non ha fatto una brutta figura a Malaga, però ha dimostrato i propri limiti ancora una volta, quindi la curiosità è soprattutto nel Milan per capire se questa conferma, diciamo così, almeno di facciata di Allegri, potrà compattare il gruppo, perché questa sera è una partita molto difficile per il Milan e forse anche una partita di svolta. Si prosegue in quel discorso tattico della difesa a tre, quindi evidentemente Allegri ha preso atto che forse si sta giocando le ultime carte, adesso vuole fare, come dire, completamente di testa sua, secondo me, e quindi stasera vedremo la risposta della squadra, ecco, per capire, insomma, se è ancora un gruppo unico con l'allenatore. Mi incuriosisce anche la risposta della Juventus, che sarà senza Marchisio e con Pogba in campo insieme a Pirlo, il che significa, credo, che probabilmente si è fatta una riflessione anche su quanto visto in Danimarca, dove i cambi sono arrivati tardissimo, il cambio di modulo addirittura è arrivato a 10 minuti dalla fine, come se senza l'ok di Conte prima Carrera e poi Alessio si fidino poco a cambiare lo spartito. Per forza. Io credo che la Juventus stia pagando adesso anche la squalifica di Conte. Non tanto per la mossa del momento in campo, che pure è molto importante, ma anche per quello che può trasmettere un allenatore da bordo campo, per le mille indicazioni che può dare durante la partita, al di là delle sostituzioni. Quindi col passare del tempo, quando aumenta la fatica, quando qualche big, vedi Vidal, non è più al meglio, e allora bisogna, come dire, raschiare un po' il fondo del barile, l'allenatore lì secondo me è molto importante, quindi la Juve adesso comincia a pagare questo aspetto, e domani è una verifica molto importante, perché sappiamo che Catania è un campo molto difficile, una squadra che gioca molto bene al calcio, che copre bene tutti gli spazi, che corre, quindi è un bel test. Però insomma, la Juventus in campagna acquisti ha rinforzato tanto l'organico, quindi ha ricambi di qualità, tu hai citato Pogba, insomma, è un giocatore che di grande prospettiva. E poi domani sarà anche il giorno di Bentner dal primo minuto, almeno questo, ecco, dicono i colleghi che lavorano vicino alla Juventus. Sulla grande prospettiva di Bentner ho qualche dubbio, però diciamo che può essere un'occasione importante per lui, che è un giocatore di grande carattere, però adesso, diciamo che oggettivamente l'organico è migliorato proprio per fronteggiare il doppio impegno. Sì, in Italia non dovrebbero esserci problemi. Intanto noi abbiamo fatto sentire prima un Mazzarri scoppiettante oggi in conferenza stampa. Anch'io. Esatto, immagino tu lo abbia seguito. Su Twitter ci scrivono: se Mazzarri in Europa non vuole giocare, poteva anche andare in un'altra società. Non ne va solo del ranking italiano, ma anche dell'immagine del Napoli. A proposito di stato di salute del calcio italiano, ti confesso, Sandro, che questa mattina ho letto con un po' di delusione la prima pagina di Tutto Sport e del Corriere dello Sport, dopo un discorso, quello di Andrea Agnelli ieri all'Assemblea degli Azionisti, che sembrava più un discorso programmatico da candidato presidente alla Federcalcio, e invece ci si è limitati a parlare di discoteche, di odio per la Juventus, probabilmente svilendo anche il messaggio. Io per la prima volta ho sentito la Juventus e Agnelli tornare a parlare di dialogo e non soltanto di contrapposizione. Cosa ne pensi? Penso che purtroppo faccia comodo così in qualche caso, proprio a livello commerciale, non lo so, è un'ipotesi, però i giornali spesso, come dire, ma anche le televisioni, non mi tiro indietro. Ma anche le radio. Anche le radio. Ci piace sottolineare qualche aspetto che possa creare, come dire, un contraddittorio, una conflittualità. Oggi ho visto la risposta di Zeman, per esempio. Possiamo fartela sentire, così la sentono anche da casa. Sì. Sentiamo Zeman allora sulle parole di Agnelli. Sul discorso di Agnelli penso che ha ragione, che ci vogliono riforme, che ci vuole migliorare. Il discorso che lo dicono tutti non è solo Agnelli, poi magari... Altro discorso che 20 anni di calcio hanno avuto in mano loro, quindi c'era tutto tempo di fare le migliorie. Dice una verità o ancora una volta va a mettere un po' il sale su una ferita? Sì, è una punzecchiatura questa, perché non c'entra niente Andrea Agnelli con la Juventus che per 20 anni, come dice Zeman, ha gestito il calcio. Adesso francamente è un'altra epoca, insomma, ecco, veramente è cambiato tutto, è cambiato tanto, sia per quello che è successo dopo Calciopoli, sia per la crisi economica tremenda che attanaglia le società, sia per la mancanza di intelligenza imprenditoriale di molti presidenti, quindi non c'entra solo la Juve, anzi la Juventus adesso è la prima che si è dotata di uno stadio, più che le riforme quello per esempio è il primo passo che una società dovrebbe fare, eppure non lo fa nessuno in Italia, quindi le responsabilità, diciamo così, dell'arretratezza del nostro sistema sono tante e vanno suddivise, insomma, se non in parti uguali, però in tante parti, quindi diciamo che Zeman ha semplificato molto. Sì, poi noi non ci facciamo davvero mancare nulla, lo abbiamo visto anche settimana scorsa con i cori odiosi su Morosini dei tifosi del Verona, ieri, anche se oggi non tutti i giornali ne hanno parlato, qualcosa di altrettanto odioso a Livorno. Ti chiedo un minuto di pazienza, Sandro, ci ha chiamato Giuseppe da Brescia all'800 24 0024. Buon pomeriggio, Giuseppe. Buon pomeriggio. Prego. Riguardo Morosini. Prego. Questa settimana ci è arrivata la notizia della multa, mi pare, per il Verona. 50.000 euro, sì. 50.000 euro. Ecco, io non mi spiego perché da 10 anni vengono ogni Fiorentina Juventus insultati i morti, 39 morti dell'Eisel, e alla Fiorentina non è mai stata fatta una multa. Spiegatemi voi il motivo. No, ma Giuseppe, però usciamo, e poi chiedo conferma anche a Sandro Piccinini, usciamo però da questo equivoco. Io penso che alla Fiorentina, così come al Verona, così come a tanti altri, le multe di tanto in tanto vengano anche fatte. Il problema è che è un tarifario evidentemente non adeguato a livello di educazione nei nostri stadi e soprattutto a livello di capacità di dissuasione e di punizione di questi episodi, che sono odiosi in sé, ma sono soprattutto delle brutte figure che noi ci portiamo in giro per il mondo, perché poi l'immagine è quella, ad esempio dei bagni dello Juventus Stadium dopo la gara di sabato scorso, le cui foto finiscono su tutti i siti, su tutti i giornali, e valgono probabilmente più dei 7.000 euro di multa, ad esempio, che ha preso la società del Napoli, che sono i 7.000 euro di multa che ha preso la Juventus per i cori, non chiamiamoli razzisti, quantomeno sconvenienti, sempre sabato sera, che, Sandro, restano un tarifario assolutamente insufficiente. Sì, però Giuseppe ha ragione nel reclamare una soluzione, e allora bisogna dire che le multe non bastano, cioè le multe non servono a niente, l'abbiamo verificato, no? Siccome per esempio per l'episodio vergognoso dei cori contro Morosini un po' tutti i testimoni hanno confermato che si trattava di un gruppo di forse 30 persone, non di più, e che ormai tutti gli stadi sono dotati di telecamere, allora basterebbe identificarli, questi 30 personaggi, ed è un'operazione molto semplice, e impedirgli di andare allo stadio, non so, per 5 anni, ecco. Quindi in quel modo di domenica in domenica si avvierebbe un'operazione di ripulitura, diciamo così, degli stadi, che permetterebbe poi magari a famiglie con donne e bambini, magari con prezzi ribassati, di occupare quegli spazi vuoti. Quindi non è che non è molto difficile, però torniamo al discorso delle riforme, no? Ci vuole la volontà, come nella politica, cioè per fare una cosa bisogna essere convinti di volerla fare. Se invece per non indispettire una società, perché si è tutti nella stessa barca, per non farsi troppi nemici magari anche a livello politico, a livello elettorale di una certa tifoseria, e non si fa nulla, allora ecco qua che da 20 anni noi discutiamo di queste cose qua, però manca la volontà, quindi manca una classe dirigente nuova. D'altra parte il calcio è la fotografia del nostro paese, insomma, no? Si parla tanto difficile che possa essere di rinnovamento della classe politica italiana. Beh, anche il calcio avrebbe bisogno di nuovi dirigenti. Ho l'impressione, e poi ti saluto, ma per usare un paradosso, non so fino a che punto, che il discorso di Agnelli ieri fosse una sorta di chiamata a un governo tecnico anche nel calcio. Ma guarda, con Meretta si provò praticamente, per esempio in Lega almeno, ad andare in quella direzione, però poi in Lega comandano sempre i presidenti che tirano il presidente di Lega per la giacca da una parte e dall'altra. La federazione ha poteri limitati nei confronti dei club, che sono entità private, quindi è un problema abbastanza grosso da affrontare, difficile mettere tutti d'accordo e andare per la retta via. Ci vorrebbe una federazione più forte, cioè in grado di imporre delle regole a tutti. Ecco, mi pare che in questi anni, pur con tutto l'impegno per esempio del presidente Abete, però mi pare che la federazione sia stata un po', come dire, in posizione troppo cauta nei confronti dei club e li abbia un po' subiti anziché imporre certe regole. Grazie Sandro. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie a Sandro Piccinini. C'è Gianluca da Napoli che ci ha raggiunto all'800 24 00 24. Gli chiedo un minuto di pazienza, ci fermiamo per il traffico, poi ripartiamo da lui. 800 24 0024 per le vostre telefonate in diretta, 349 238 6666 per i vostri messaggi, oppure su Facebook a Tempo di Sport - Radio 24, pagina che rimane aperta tutta la settimana, o su Twitter @ Capuano Joe. Gianluca da Napoli, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, salve. Prego. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Volevo dire, il problema dei corridattisti nello stadio e per colpa di alcuni imbecilli viene rovinata anche l'immagine e la credibilità del territorio. A questo punto, sentivo prima, basterebbe poco, alcune volte, un po' di buonsenso, nel senso che se ad esempio la società viene penalizzata con multe gravissime, una squalifica del campo che va da 5 giornate, queste persone vengono portate in galera, ovviamente le cose cambiano. Ma sarebbe bellissimo, sarebbe bellissimo, l'abbiamo visto bellissimo, all'estero. Basterebbe fare una cosa semplicissima, che è stata fatta anche in Inghilterra, con gli hooligans, dove si vede la partita a bordo campo, io vado allo stadio, non posso vedermi la partita a bordo campo per colpa di qualche stupido. Certo. E questo non è giusto. Grazie Gianluca. Io penso però che, e senza voler criminalizzare il Verona, tra l'altro oggi la società ha fatto di tutto davvero per dissociarsi dai cori di settimana scorsa, penso però che la motivazione del giudice sportivo, che ha detto che le sanzioni previste sarebbero state troppo dure per il club, sia una sorta di resa, l'ennesima, del calcio italiano a queste frange di tifo violento. Gianluca dalla provincia di Monza. Pronto, buongiorno. Sì, buon pomeriggio. Complimenti per il programma. Grazie. Volevo dire su Lippi. Dica. Tutti lo stanno dipingendo come un eroe, sicuramente ha vinto. Ha vinto la Juve, che poi si vede se ha vinto sul campo, in farmacia, non lo so. Sì, ha vinto sul campo, per cortesia Gianluca, perché sennò apriamo delle pagine che noi apriamo anche volentieri, non magari condensandole in 30 secondi e in una battuta. Quindi fino a prova contraria ha vinto in campo e non in farmacia, pur all'interno di un periodo su cui un processo ha gettato alcune ombre. E qui direi possiamo fermarci, no? No, però volevo dire, però quando è arrivato all'Inter, sì, ha portato lì i giocatori a fine carriera. Abbiamo mandato via un portiere che era, secondo me, il Pagliuca, che era ancora forte, per prendere Peruzzi, che comunque era quasi a fine carriera. Abbiamo preso Jugovic, che non correva più da 2 anni, non giocava più. Paolo Sosa, che non so, non mi sembra un allenatore così forte come viene dipinto. Ma io credo, Gianluca, che Lippi, come tanti allenatori, quindi non solo lui, abbia poi il difetto di far fatica a voltare pagina, perché l'errore che ha fatto venendo all'Inter, andando all'Inter, è stato anche l'errore che ha commesso nel 2010 nei mondiali in Sudafrica, dove anche per una questione di gratitudine si è portato dietro molti dei protagonisti del mondiale vinto nel 2006 in Germania, con risultati che non sono stati certamente gli stessi, non sono stati certamente positivi. Grazie Gianluca. A proposito di voci della vigilia, allora sentiamo la voce dell'allenatore della Juventus in seconda, Angelo Alessio. Sicuramente la partita più difficile che ci toccherà affrontare domani. È una squadra che gioca bene da qualche anno, cambia pochissimo, è cambiato l'allenatore, però sono una squadra che gioca insieme da diverso tempo. L'anno scorso ci ha messo in difficoltà sia a Catania che parte anche qui a Torino. In casa ha vinto 3 partite, ne ha pareggiata una, per giunta in 10 contro il Napoli. E questo lo dice lunga, insomma. Alessandro dalla provincia di Padova. Buongiorno, complimenti per il programma. Grazie. Io volevo dire, prego, una cosa. Sono un tifoso del Padova. Io ho avuto anche la fortuna di vedere i tifosi del Verona 15 giorni fa allo stadio nel derby. Erano tantissimi. E quello che volevo dire io è questo. E come diceva Piccinini, inibirli allo stadio è inutile, perché la settimana scorsa abbiamo giocato a Vicenza e allo stadio c'erano i tifosi del Padova che non hanno la testa del tifoso. Dunque volevo chiedermi come hanno fatto a entrare allo stadio. Sì, tra l'altro sottolineo che nel dispositivo del giudice sportivo della Lega di Serie B, quello dei 50.000 euro di multa, è precisato che tutti i presenti nella trasferta di Livorno erano dotati di tessera del tifoso. Infatti loro sono il che significa che evidentemente non è stata sufficiente quella come misura per cercare di creare un deterrente, però è anche vero che è stato un passo, perché poi le statistiche dicono che gli incidenti all'interno degli stadi sono diminuiti, così come è diminuito l'utilizzo della forza pubblica, quella che viene poi pagata da tutti noi. Grazie ad Alessandro. Gianluca da Verona, buon pomeriggio. Buon pomeriggio anche lei. Prego. Complimenti per la trasmissione. Niente, volevo dire semplicemente, come diceva anche Piccinini, che sarebbe più giusto individuare quel gruppetto di tifosi che fanno tanta confusione, e perché sennò così diventa uno strumento facile anche per gli avversari, far multare le società avversarie, diciamo. Sì, ecco. Anche se non credo che sia questo il caso, come non è stato il caso ieri sera a Livorno, ad esempio, quando parte della curva ha voltato le spalle in segno di spregio nel momento della commemorazione dell'alpino morto in Afghanistan. Cioè, io non credo che sabato scorso a Livorno siano stati i tifosi del Livorno a cercare di far squalificare il campo del Verona. Però è evidente che, e su questo condivido il suo pensiero, che si debba cercare di essere il più chirurgici possibili, fatto salvo che poi una multa da 50.000 euro in un mondo come quello del calcio professionistico, mi corregga se la pensa diversamente, dà tanto la sensazione della poca volontà di ripulirsi. Sì, infatti potrà servire forse per far cassa, ma la volontà di ripulire deve passare per forza dall'individuazione, secondo me, delle persone, e ripulire definitivamente questo calcio. Anche perché, insomma, lo sport è uno sport bellissimo, deve essere di tutti e deve essere, come si può dire, avere tolleranza da parte di tutti. Ecco. Grazie Gianluca. Grazie a lei, buona giornata. Grazie Gianluca da Verona. E allora, in attesa della giornata di domani, ci sentiamo anche stramaccioni su questa vigilia di Bologna-Inter sul Tridente. Noi finora abbiamo fatto molto bene con i 3 giocatori offensivi, e che io ricordi solamente la partita col Chievo non c'è stato in campo il terzo giocatore, diciamo, con caratteristiche non da centrocampista, mettiamolo così. Quindi se stiamo facendo così bene, non vedo perché dovremmo rinunciarci. È una questione di equilibri, quindi assolutamente sì, anche perché Cassano dei 3 davanti è il giocatore che adesso sta facendo, secondo me, meglio. Alcuni dei messaggi arrivati al 349-238-6666. Gli investitori stranieri vanno in Inghilterra e in Germania, dove ci sono già i presupposti per investire nel calcio. In Italia questo non accade. O ancora, il caso dello stadio di Napoli è uno scandalo. Agnelli ha pienamente ragione. E poi c'è chi suggerisce come nome per il prossimo governo del calcio italiano quello di Andrea Bodi, presidente della Lega di Serie B. Torneremo a parlarne anche domani a partire dalle 16.30. Vi racconteremo tutta la giornata e non solo, perché parleremo anche di basket e di altri sport. Ringrazio Valeria Bernardi in regia, Giorgio De Luca in redazione. Un saluto anche da Giovanni Capuano e a risentirci domani alle 16.30.